l'altro dei quotidiani oggi non troverete l'Unità, che è in sciopero per polemica con il suo editore Soru. Non la trovate dunque in edicola. Per quel che riguarda gli altri quotidiani, in questo venerdì 16 dicembre vediamo i titoli di apertura: Il Sole 24 Ore, pensioni, la guida ai blocchi e alle deroghe, tassa sul tabacco, salve le sigarette. Per il Corriere della Sera, Monti avanti tra le ostilità, Repubblica, liberalizzazioni, piegheremo le lobby, parla Catricalà. L'Italia è già in recessione, questo è il titolo della Stampa. Libero invece, Monti è disperato, questa è la frase detta ieri da Berlusconi. Per il Fatto Quotidiano, Berlusconi minaccia Monti, il ricatto continua. E anche per Il Secolo, Berlusconi, Monti non dura. È tornato Berlusconi, cari ascoltatori. Il Messaggero, manovra, si vota tra le polemiche, mentre Il Giornale si concentra su le paghe d'oro statali. Era la vicenda di cui parlavamo ieri e io dicevo no, sarà uno scherzo, non sarà così, non sarà così, è così. E oggi i giornali si concentrano molto, lo vedremo. Il Manifesto, indietro tutta, questo è il titolo. E anche peggio di quello che ci aspettavamo, il ministro Passera vede avvicinarsi la recessione e ci sono degli operai che sono seduti in una foto simbolica, come dire, la recessione in arrivo nel 2012. Prima però voglio partire da due notizie, la prima la troviamo in prima pagina su Libero e riguarda Lady Monti, si può dire. La prima pagina su Libero è questa. È subito casta, la First Lady gira in auto blu. Ma come, direte voi? Ebbene, Brunella Bollioli racconta quello che è uno scoop in realtà del settimanale Pocket. Ai ai ai, signora Monti, mi è caduta sull'auto blu. Ma come? Proprio lei, la moglie del super tecnico che ci impone i sacrifici, la stangata sulla casa, i tagli alle pensioni, la manovra lacrima e sangue. Eppure all'inizio era sembrata così rigorosa la consorte del presidente del Consiglio, senza tanti fronzoli, impeccabile nel suo stile da first lady nordica, poche parole, look sobrio, ostentazioni ridotte al minimo, giusto l'apparizione alla Gran Soirée alla Scala di Milano. Per il resto la signora Elsa è subito apparsa come un modello di austerity per il nuovo corso di Palazzo Chigi. Adesso però quell'immagine austera sembra messa in soffitta. La signora Elsa Antonioli Monti è stata pizzicata dal mensile Pocket in giro per Roma a bordo di una lussuosa auto blu, una Lancia Tesis, probabilmente nel parco macchine della Presidenza del Consiglio. Accanto a lui c'era un uomo scortato, era scortata da un uomo armato. Da Palazzo Chigi non smentiscono la notizia che il segugio della fortunata Free Press diretta da Daniele Quinzi e distribuita in tutta Italia conferma, perché la signora Elsa era proprio lei e Super Mario non le era seduto accanto. Ecco, questa dunque viene messa in prima pagina da Libero, lo scivolone Lady Monti in auto blu, lo scoop senza smentite. A proposito invece di una vecchia vicenda che ogni tanto rispunta, è rispuntata la famosa casa a insaputa sua dell'ex ministro Scajola, che ora pare sia diventata una casa meno a insaputa. Questo almeno lo si evince da tutti i giornali. Il Secolo XIX vi dedica una pagina: Scajola, blitz per evitare il processo. Ma anche sul Messaggero, Scajola sulla casa al Colosseo, era un regalo di Anemone. La vicenda ricostruita dal Secolo XIX riguarda la famosa casa in via Fagutale a Roma, vista Colosseo, per la quale Scajola è indagato e rischia il processo, la citazione diretta a giudizio, perché l'accusa è quella di finanziamento illecito a un singolo parlamentare. Secondo l'accusa fu comprata parte della casa dall'imprenditore Diego Anemone. Ebbene, Scajola ha presentato l'ultimo giorno possibile una memoria difensiva nella quale per la prima volta entra nel merito dei denari non suoi finiti nei conti correnti delle sorelle Papa che avevano venduto l'immobile in questione. In pratica pare sia scomparsa la frase a sua insaputa, diciamo, e soprattutto C'è l'ammissione che è stata una donazione di fatto, ma per la difesa la donazione non era da parte delle imprese di Anemone, come invece sostiene l'accusa. E poi però c'è quello che ieri in TV, su Rai 3, nel programma Agora, Claudio Scajola ha detto a proposito di questa casa, è tornato a parlarne e ha detto questo, udite udite, di quella casa mi voglio assolutamente liberare e mi rimprovero di averla acquistata. Quando mi sono dimesso da ministro non sono più entrato in quella casa, sono stato 6 mesi in albergo, oggi non la vivo, ci dormo solo una o due notti a settimana quando sono a Roma. Quindi il giornale, tra l'altro a pagina 3, ironizza: salvate Scajola dalla sua casa, cedesi a persona di buon cuore, appartamento prestigioso acquisito a mia insaputa, vista Colosseo, rivolgersi Claudio. Questo potrebbe essere un fantomatico annuncio immobiliare che comparirà a Roma, non sorprendetevi se succederà nei prossimi giorni. È l'onorevole Scajola Claudio che cerca di dar via al suo quartierino in via del Fagutale, quello per cui tuttora è indagato per violazione della legge sul finanziamento ai partiti, una casa. Profilasi affarone, scrive sempre sul filo dell'ironia ovviamente il giornale. Di quella casa, infatti, ha detto Scajola, mi voglio assolutamente liberare. E nel frattempo sto in albergo, non la vivo, ma ogni tanto, un paio di giorni a settimana, ci dormo. 24 mattino. Eccoci allora alle 7:34 minuti, è il giorno in cui verrà approvata con la fiducia la manovra alla Camera, il giorno in cui, come certificato dal Centro Studi Confindustria, l'Italia è già in recessione. L'allarme del Centro Studi Confindustria nel 2012 si preannuncia quest'anno così, cari ascoltatori: in recessione, il PIL atteso in calo dell'1,6%, una disoccupazione che toccherà 9% di quota, i posti persi saliranno a 800.000 dal 2008 e con tutto questo il boom della pressione fiscale reale che aumenterà al 53% nel 2013. Questi sono i dati per nulla confortanti che ci vengono forniti al Centro Studi Confindustria. Intanto, appunto, se volete trovare tutti i dettagli della manovra che sarà e che ormai quasi è, visto che viene approvata con fiducia oggi alla Camera, poi settimana prossima al Senato, oggi il primo sì, ecco cosa cambia per le categorie, a pagina 2 e 3 del Sole 24 Ore trovate tutto per quel che riguarda professionisti, imprese, banche, assicurazioni, un vademecum davvero su quello che succederà con l'approvazione della manovra. Certo, c'è tutto il grande capitolo su cui torneremo oggi per concentrarci sul tema farmacie, di quello che invece non sarà per il momento, vale a dire le liberalizzazioni. Ora il Premier Monti ha detto le faremo comunque in una seconda fase, ci sono state delle resistenze molto molto dure, vi saranno nuovi provvedimenti per far guarire la crescita già a gennaio, mentre devo registrare che su Repubblica parla Antonio Catricalà proprio su questo tema. Infatti Repubblica mette il titolo di apertura: liberalizzazioni, piegheremo le lobby. Arrabbiato, certo che sono amareggiato, la forza delle lobby in Parlamento è ancora potente. Io vengo dall'antitrust, Monti è stato commissario europeo per la concorrenza, vuole che non siamo delusi? Lo siamo, ma non ci arrenderemo. Così il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Antonio Catricalà inizia l'intervista con Claudio Tito di Repubblica, un'intervista che poi prosegue nell'intera pagina 3. Soprattutto la delusione per Catricalà è proprio sullo stop dei farmaci. Noi non ci fermiamo, prometto battaglia, batteremo le lobby e da gennaio andremo avanti, non intendiamo più fare brutte figure, ripresenteremo tutto. C'è da dire, aggiungo io, questo è un refrain che si sente da decenni in Italia, si vuole sperare che possa essere la volta giusta. Le lobby del resto sono forti, continua Catricalà. In questo caso sono state anche aiutate dalla disattenzione di alcuni parlamentari, una vicenda che ci ha fatto riflettere. Riguardo ai farmaci, sono stati oscurati dall'insuccesso le liberalizzazioni sui farmaci di fascia C. È vero, si tratta di un vulnus alla coerenza del nostro intervento, non c'è dubbio. Sono le famiglie ad essere danneggiate, il prezzo dei medicinali così non potrà calare. Ma questo vulnus che ci fa star male non sarà permanente. Noi abbiamo il dovere di fare una legge annuale sulla concorrenza e tutto ciò che non è stato possibile approvare ora lo porremo presto all'attenzione dei partiti e dell'opinione pubblica. E ancora sulla questione delle lobby, dice Catricalà, è difficile ammorbidirle, per le farmacie si sono dimostrate molto forti. Ho dovuto cedere qualche centimetro al perimetro chilometrico delle loro esclusive, ma so che nessun privilegio cade al primo colpo. Certe cose poi sono radicate nella convinzione politica di molti parlamentari. Insomma, sul tema dei farmaci e delle farmacie, Catricalà promette battaglia, non ci fermiamo qui. La spiega molto bene la questione delle farmacie il farmacologo Garattini. Ieri, tra l'altro, vi preannuncio, ieri avevamo avuto i farmacisti, oggi avremo le parafarmacie alle 8:30 per spiegare la loro versione dei fatti. Il farmacologo Silvio Garattini, intervistato dalla Stampa, pagina 13, da Raffaello Masci, la racconta in maniera molto semplice. La liberalizzazione di cui stiamo parlando, di cui si è occupato il governo, è una cosa molto chiara. Estendere la rete di vendita di certi farmaci, quelli definiti di fascia C, cioè a totale carico del cittadino, anche nelle circa 3.000 parafarmacie. Tutto qua. Non mi pare una rivoluzione. E allora perché, chiede la Stampa, le farmacie sono sul piede di guerra? Ma è semplice, risponde Garattini. Vedono in questa misura una possibile erosione del loro fatturato. La metta come vuole, la chiami lobby, ma è questa cosa qui, niente di più. Prima la torta era tutta per loro, ora la dovranno dividere con altri, che sono comunque dei loro colleghi. E questo è il problema. C'è un problema di sicurezza, ma quando mai c'è un medico che mi prescrive un farmaco, io vado a comprarlo da un farmacista? C'è qualche differenza se questo medico lavora, me lo prescrive, io vado da un farmacista che lavora in un posto diverso, che non si chiama farmacia, ma si chiama parafarmacia e si trova all'interno di un supermercato? No, non c'è alcuna differenza, dice Garattini. Dopodiché capisco le rimostranze del titolare di farmacia, in quanto i medicinali a pagamento costituiscono un business complessivo di circa 12 milioni al giorno contro i 45 che spende il Servizio Sanitario Nazionale. Vabbè, torneremo su questo tema. C'è un altro fronte che si apre sulle liberalizzazioni. Ieri mi hanno scritto anche sulla nostra pagina di Facebook 24 Mattino alcuni edicolanti a dire: e di noi edicolanti non parlate, di noi. Ma noi, io massimo rispetto per chi ci porta, no, questa carta che sentite, la carta dei giornali che ci permette la distribuzione di questi strumenti di comunicazione. Parte la serrata 27, 28, 29 dicembre degli edicolanti. Serrata delle edicole, annuncia anche il Sole 24 Ore, pagina 16. La protesta per 3 giorni, perché cosa? C'è una norma, l'articolo 31 della manovra, che prevede libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali senza contingenti, limitazioni territoriali o di altra natura. Ed eccolo qui, l'altro no secco arriva dagli edicolanti. Anche il Messaggero dedica una pagina: verso una serrata di 3 giorni, gli edicolanti dicono è a rischio la chiusura di 30.000 punti di vendita, e dunque dal 27 al 29 dicembre la serrata di 3 giorni. Ora, cari ascoltatori, devo aprire un capitolo che già mi fa grondare sangue dal cuore, si potrebbe dire. Ieri l'avevo detto, leggendola dal Fatto Quotidiano: io non voglio pensare che sia così, io non ci voglio credere che ci sia questo codicillo, questa norma ad hoc, l'ha definita il Fatto Quotidiano, che stabilisce che vi possano essere delle deroghe, questa parola deroga, quando si mette una parola deroga in una legge succede poi il finimondo, al limite delle paghe per gli alti papaveri della pubblica amministrazione, come sono stati definiti. Oggi il giornale li definisce i boiardi di Stato. È tutto vero, è tutto così. Pare, salve le paghe dei super manager. La vicenda è questa: la manovra stabilisce che le paghe dei super manager dipendenti dello Stato debbano conformarsi allo stipendio del primo presidente di Cassazione, 305.000 euro. Ma appunto, eccolo qui spuntato il codicillo che era sfuggito ai più, ma in realtà c'è, che il governo può prevedere delle deroghe motivate per le posizioni apicali delle rispettive amministrazioni. Risultato per il Corriere della Sera, pagina 8, salve le paghe dei super manager. Niente tetto alle posizioni apicali. Per Repubblica, deroga sugli stipendi dei manager. Palazzo Chigi subito precisa, non riguarda i ministri. Chi riguarda allora? Il giornale pare aver individuato le paghe d'oro statali, questo è il titolo di prima pagina. Ci sono tre pagine, pagina 2, 3, 4, di tutto un elenco di persone. Eccole le paghe d'oro statali, l'articolo è l'editoriale di Vittorio Feltri, vengono definiti i boiardi di Stato. Qualche esempio: l'amministratore delegato della SACE, Alessandro Castellano, 800.000 euro. Il presidente di Fintecna, Maurizio Prato, 720.000 euro. Il presidente di Poste Italiane, Giovanni Ghialongo, 590.000 euro. Il presidente di A2A, Graziano Tarantini, 505.000 euro. Il presidente di Consip, Raffaele Ferrara, in realtà amministratore fino al 28 aprile 2011, 285.000 euro. Beh, questa però è sotto i 305.000. Oppure, vediamo sopra, Sogei, Marco Bonamico, amministratore delegato, 352.000 euro. E poi ci sono quelli più Paolo Scaroni, amministratore delegato dell'ENI, 4.420.000 euro. Guido Pugliesi dell'ENAV, amministratore delegato, 478.000 euro. Paolo Garimberti, presidente della RAI, 448.000 euro. Fulvio Conti, amministratore delegato dell'Ener, 1.380.000 euro. Massimo Sarmi, amministratore delegato di Poste Italiane, 1.205.000 euro. Guarguaglini, che però si è dimesso, ma aveva 2.475.000 euro in Finmeccanica. Insomma, queste paghe sono queste le posizioni apicali dell'amministrazione di dipendente di aziende controllate dallo Stato per le quali ci sono le deroghe? Chi lo sa? Sta di fatto che questo è il tema, le deroghe speciali per le posizioni apicali che possono essere fatte per sforare questo tetto di 305.000 euro. Alle 8.20 vi annuncio avremo uno dei due leghisti, l'onorevole Rainieri, che è stato espulso ieri alla Camera. La Padania, il titolo è Governo già in bilico. In realtà ieri è successa una bagarre per il secondo giorno consecutivo. L'onorevole Pini ha dato del cialtrone a Fini, si è anche visto da un labiale fuori dal microfono chiaramente un vaffanculo che è partito all'onorevole Pini. C'è l'onorevole Buonanno, che è uno di quegli espulsi che ha invocato l'uso del lanciafiamme, credo, contro la CGIL. C'è l'onorevole Rainieri, che è stato espulso anche lui e che sarà nostro ospite perché si è seduto sui banchi del governo. Tra l'altro pesa anche abbastanza, glielo chiederemo quanto pesano. Facevano fatica i commessi a tirarlo via, ha fatto una opposizione gandhiana, si potrebbe dire, solo che Gandhi era magrolino, lui col suo peso facevano fatica i commessi proprio a spostarlo. È stato espulso. Sta di fatto che questo è, insomma, vi mancava questa politica, no? Così un po' appassionata, diciamo così, questa politica un po' rissosa, questa politica di insulti in Parlamento. Come vi manca Silvio Berlusconi, che è ricomparso ieri, ha detto delle cose molto interessanti dopo il traffico. Allora, è tornato Berlusconi, ieri presentazione del libro di Bruno Vespa, l'abbiamo sentito anche nel giornale radio, alcune frasi. Beh, Monti è disperato come passera perché ha visto i tempi delle opere pubbliche. Monti, non è detto che duri. Siamo pronti al voto, lo scioglimento delle Camere può sempre accadere anche domani. E poi quella citazione che fa già molto discutere su Mussolini. Aveva ragione, governare gli italiani non è impossibile, è inutile. Sto leggendo le lettere di Benito Mussolini e Claretta Petacci e mi ritrovo in molte di quelle situazioni. Lui si lamentava della mancanza di potere visto che non riusciva nemmeno a raccomandare una persona. E poi anche il fascismo, una democrazia minore. Insomma, queste frasi di Berlusconi ieri, una battuta su Tremonti, lui è sempre stato vicino a Bossi, non ha mai partecipato a una manifestazione del PDL. Vabbè, questo Silvio Berlusconi con Libero che dice bravo cavaliere, fermalo, ieri aveva fatto questo appello Berlusconi a dire fermi, deve fermare questa manovra, ma non lo farà. Intanto due notizie di due persone, due politici che stanno per lasciare il Popolo della Libertà, sono Stefania Craxi che lascia il Popolo della Libertà e pare anche Letizia Moratti, ex sindaco di Milano, che sembra vicina a Fini. A proposito di ultima notizia, un'altra dalla, così, dal tempio della casta, c'è un deputato che sta facendo molto discutere, si tratta, fa discutere spesso per la verità, ma in questo caso si tratta di Barbato, dell'Italia dei Valori, Francesco Barbato, che cosa sta facendo? Gira sempre con questi telefonini o aggeggi per cui fa i video all'interno della Camera, è una cosa vietatissima dai regolamenti. Eccolo qui, intervistato dal Fatto Quotidiano, a pagina 3, sono lo 007 anticasta, tra ascensori, telefonino e insulti, perché viene considerato un reietto dai colleghi. Eccoli qui, tutti i miei filmati, l'ultimo della casta che ha immortalato Pier Ferdinando Casini, io lo chiamo l'onorevole Altana, ha un intero piano utilizzato da lui in quanto ex presidente della Camera. Se mi accusano i miei parlamentari non mi interessa, mi cacceranno, io ricuserò i miei giudici dell'ufficio di presidenza, ho beccato anche i deputati questori, i tre deputati questori che hanno diritto a un appartamento a Palazzo Marini, sono entrato come uno 007 nell'appartamento di Mazzocchi, uno dei tre questori, ho trovato la porta aperta, terrazzi panoramici nel cuore di Roma, giardini pensili con sdraio, ombrelloni, solari, un fiori freschi ogni giorno, candelabri d'argento, servizio di lavanderia, tintoria, pulizia, catering che parte a bordo di un furgone bianco parcheggiato di solito nel garage di Montecitorio, mangiano pure tre volte al giorno. Altro che deputati questori, sono deputati scrocconi. Questo è Francesco Barbato, c'è un loro collega che gira e filma e poi manda alle trasmissioni, manda e dice mi sospenderanno, non mi interessa, è già accaduto tre volte, io sono un pubblico ufficiale, ho il dovere di tirar fuori queste cose. Finisce l'intervista come, vabbè, insomma, questo è un aspetto di colore, passa un altro onorevole con cui non va molto d'accordo Barbato, Amedeo La Boccetta, che lo guarda con insistenza in segno di sfida. Barbato reagisce e dice che vuoi, e La Boccetta ma vaffanculo. Ecco, questo il tenore sempre di dei deputati alla Camera. E sono in conclusione, vi voglio segnalare come cronaca di esteri, purtroppo lo devo fare solo come flash molto veloce, ma in realtà è una notizia che meriterebbe approfondimenti, forse lo faremo anche lunedì. È finita la guerra in Iraq, questo almeno l'ammaina bandiera americano. 8 anni, 8 mesi e 26 giorni dopo l'attacco lanciato da George Bush nel marzo del 2003, un conflitto costato oltre 100.000 morti, 800 miliardi di dollari, ammainata la bandiera americana e finita la guerra dei 9 anni, così il Corriere vi dedica 2 pagine. La Stampa invece segnala anche Baghdad, in una discarica trovati i documenti segreti del massacro di Adita, che è una località dell'Iraq dove i Marines fecero un massacro, svelato tra l'altro dalla stampa americana, dal New York Times, c'è anche un libro che ho appena finito di leggere, molto molto bello, sul tema e sulla vicenda dunque dell'Iraq trovate alcune pagine. L'ultima vicenda che vi segnalo, giusto per chiudere così con un po' di colore, tempi di austerity anche in Rai. Un taglio a Vieri, l'avevamo detto proprio qui, il cachet per Ballando con le Stelle, come si chiama il programma? Vabbè, quello lì della Rai, Ballando con le Stelle, era di 650.000 euro, anche Gianni Rivera aveva chiesto pare 450.000 euro, alla Rai hanno detto, ma che scherziamo, insomma, sono un po' troppi, o riduce il cachet Bobo Vieri oppure non balla. E quindi 650.000 euro per Vieri e 450.000 per l'ex calciatore Gianni Rivera sono troppi. Tempo di austerity anche loro. Abbassatevi un po' il cachet o non ballate. Il giornale radio.